Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo di nuovo noi, 451 frammenti sonori, è un'altra voce, sono le mille voci, dato che la trasmissione della scorsa settimana parlavamo anche dell'uso della voce di Carmelo Bene, probabilmente il fantasma del grande Bene è comparso, mi ha fatto uscire una diplofonia un po' rospeggiante. Comunque niente, ovviamente un saluto da 451 frammenti sonori che rientra dopo una domenica bestiale ma forse il fine settimana bestiale, dato che siamo riusciti anche ad arrivare negli studi della Città del Capo stasera sotto veramente una dimensione mai vista, quasi a Bologna, polare, meno 8 la temperatura, c'è pure la nebbia, una roba veramente apocalittica qua intorno ormai alle feste natalizie. E ovviamente dopo la trasmissione di domenica scorsa dedicata al grande genio di Carmelo Bene, stasera ci occuperemo di un altro grande del Novecento. D'altronde avevamo anche già annunciato qualcosa la scorsa puntata proprio per chiudere l'anno 2009 in bellezza, ma ricordiamo anche ovviamente i nomi dei conduttori di questa trasmissione così malata e deviata, che anche polare: Pier Luigi Moruzzi e Sandro Lararti. Perché è difficile da presentare Lararti perché ha due A. Lararti è un nome abbastanza strano. Comunque, tu sei Eliseo Scarpa, comunque, sì, infatti, tu sei Max Macchia. Non giochiamo. Bene, ovviamente anche un ricordo agli ascoltatori che lo sapevano e che si sono dimenticato, gli ascoltatori che per caso fossero messi in onda soltanto in questo momento e casualmente su queste onde malate di 451 frammenti sonori, che già da due mesi ormai, per l'opera ingegnosa e decisiva del buon Lorenzo Albano, che salutiamo dalla regia, è nato il no blog di 451 frammenti sonori, dove sono inserite tutte le puntate da due mesi a questa parte, dal 25 ottobre fino ad oggi, di 451 frammenti sonori in formato MP3, e che dunque potete ascoltare in tutte le sue parti se siete curiosi di riascoltare i materiali e la trasmissione, con ovviamente la playlist e la scaletta delle puntate che abbiamo preparato nel corso di questi due mesi, dunque i materiali che abbiamo inserito, i brani musicali, i dischi di riferimento, gli anni e anche altri materiali tipo video, testi. Intanto sta crollando un pezzo del nostro studio di Radio Città del Capo, ma succede anche questo, sai, è il freddo, questo è il gelo, il gelo che entra, però anche ci sono ancora, bene, almeno mi sembra. Sei riuscito ad arrampicarti su un piano inclinato e a inventarti un microfono sul momento, bravo, devo dire che anche questa è arte di improvvisazione. E dunque potete andare su questo blog anche per chiederci informazioni, darci pareri, insultarci, chi più ne ha più ne metta. Ed è il sito e il blog, vi diamo l'indirizzo, che è 451frammentisonori.noblogs.org, dove potete appunto avere e leggere queste informazioni. Andando sulla serata di stasera, avevamo già annunciato la scorsa puntata che avevamo intenzione di portare avanti questa trasmissione oggi domenica, cos'è, il 19, il 20, non mi ricordo più, il 20 di dicembre, trasmissione che abbiamo voluto chiamare Natale con Delesi. Io adesso ti lascio la parola a buon Max, che sta risolvendo gli ultimi problemi tecnici di una serata polare, e ricordando anche appunto il grande Gilles Deleuze, con una frase importante di un altro grande come Michel Foucault, che lo definiva appunto il secolo, quello del Novecento, il secolo delesiano. Probabilmente il secolo delesiano, così pensava Foucault, altro grande e radicale filosofo del Novecento, quella Francia così ardente degli anni 60 e 70, per molti versi una sorta di avanguardia dentro già un pensiero che era già nel dopoguerra avanguardistico, quello dello strutturalismo. Deleuze insieme a Foucault si muovono dentro quella arco temporale, spaziale, indefinito e indefinibile per molti versi, è proprio la fascinazione anche del lavoro, soprattutto deleuziano, e quindi tutto il discorso su rizoma, quindi su uno sviluppo non verticale, non gerarchico. In questo senso la verticalità è rotta, rotta da Deleuze, ma un sviluppo di tipo orizzontale, quindi appunto il rizoma, che è una sorta di radice che è nel sottosuolo e che si sviluppa, appunto sviluppa le proprie radici, i propri rizomi appunto in orizzontale. Un po' parte da lì tutto il discorso che riguarda anche questa sera Natale con Deleuze, perché insomma noi il Natale lo passiamo con Deleuze, certo. E ve lo facciamo passare pure a voi, mica lo passiamo, che ne so, con Pippo Baudo che tra l'altro stasera l'ho visto in una trasmissione che domenica, tipo Domenica In, forse era Domenica In, che ricordava molto gli anni Ottanta. Ah, proprio quello stile. Sì, quindi proprio gli anni Ottanta che non passano mai, non passeranno mai più. Negli anni Ottanta il pensiero di Deleuze prendeva anche una forma molto particolare in Italia attraverso Gianni Vattimo e attraverso quindi quello che è stato considerato il debolismo, il pensiero debole, il pensiero della differenza. In realtà la faccenda è ben più complessa, sicuramente c'è un discorso che va fuori addirittura antidialettico di Deleuze, quindi fuori da Hegel, ma per certi versi anche qualcuno l'ha letto fuori da Marx, e su questo poi parleremo immediatamente dopo aver ascoltato un po' di musica. Sicuramente il discorso di Deleuze e la filosofia di Deleuze, la politica poi di Deleuze, è molto più complessa di quello che si è voluto insomma far credere, senza togliere niente a Gianni Vattimo, che comunque filosofo assai importante anche in quest'Italia, forse anche proprio in questi ultimi giorni insomma di omologazione totale, un Vattimo che si muove in maniera anche abbastanza inconsueta per insomma, un personaggio che era quasi dentro l'establishment, poi in realtà si è visto che ha ancora qualche carta folle da giocare. Folle anche alle volte, perché l'ultima è stata abbastanza allucinante. Comunque sì, fa parte della sua attitudine e fa parte delle contraddizioni, sì, che stanno dentro Deleuze. Questa sera Natale con Deleuze, soprattutto legato alla musica, riprenderemo il discorso dell'antidialettica, del rizoma, chiaramente il discorso dell'antipsichiatria con l'antiadipo, con Guattari, eccetera eccetera. Iniziamo con il delesiano per antonomasia, 1972, Schizzo, prima operazione di Richard Pinat, che all'epoca tentava le prime esperimenti in termini musicali e lo tentava con un discorso particolarmente legato a Deleuze, Le Voyage, proprio un nostro viaggio personale dentro il mondo di Richard Pinat, ma d'altronde nel 1972 il buon sperimentatore francese compiva proprio questo viaggio dentro il rizoma delesiano, con una partecipazione proprio diretta del grande Gilles, che sentiremo appunto con proprio con la sua voce, viva voce, dentro l'esperimentazione appunto di Pinat, in questo caso Schizzo. Les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur là de tous les voyages. Thank you. et que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être les visages de ses habitants, plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, il songe à ce qu'il peut donner au jour entre le dixième et le douzième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche la philosophie d'avant midi. Splendido questo lavoro, sempre del chitarrista che abbiamo presentato poc'anzi come nel progetto Schizzo, cioè Richard Pinat, francese, chitarrista francese che ha portato avanti la sua progettualità musicale attraverso diversi progetti. Abbiamo ascoltato appunto il primo progetto musicale, Schizzo, che partiva, iniziava la sua epopea musicale dal 72 al 74, mentre il brano successivo, quello che abbiamo appena ascoltato, con forti influenze cosmiche, con riferimenti molto chiari anche a tutte le sperimentazioni connesse soprattutto al Frippertronics di Robert Fripp, del progetto degli Eldon che nascono dopo gli Schizzo nel 1974, porteranno avanti ben 5 anni di produzioni musicali, coronandole con addirittura 7 album. Musicista assolutamente poliedrico, oltretutto un'altra particolarità che poi andremo anche forse a analizzare meglio rispetto al collegamento con Deleuze, che è appunto il padrino, il padre di questa trasmissione, il fatto che lo stesso Pinat, appunto uno dei fondatori degli Eldon, è stato assistente alla Sorbona di Parigi come appunto docente universitario, e dunque nasce lì il suo percorso anche appunto culturale, filosofico, artistico, connesso appunto all'Università di Sorbona, che lo stesso Deleuze ha ben frequentato, essendo anche lui assistente alla docenza della storia della filosofia tra il 1960 e il 1964. Dunque c'è anche questo collegamento, ma poi ovviamente andremo anche a sviscerare meglio anche questo discorso collaborativo poi nel progetto Schizzo che abbiamo ascoltato come primo brano di apertura. Un progetto questo appunto di gli Eldon, che è andato avanti per 5 anni, ma è stato sicuramente importante sul piano musicale. E questo disco in particolare, che è il primo album che abbiamo ascoltato, Electronic Guerrilla del 1974, ed è stato quasi completamente realizzato dallo stesso Richard Pinat attraverso sintetizzatore e chitarra. Interessante appunto anche il discorso connesso a Robert Fripp, dato che gli Eldon, soprattutto in 2 brani, tra cui il brano che abbiamo ascoltato adesso, che è Circolo Vizioso, traduzione in italiano, non ho voluto appunto buttarmi su altre cose, cioè il titolo originale, perché dopo faccio dei strafalcioni. Ecco, tu che sei il latinista, presentano appunto questi brani, poi l'altro che è Back to Eldon, presentano appunto schemi che vengono derivati dagli esperimenti dello stesso Fripp, cioè le scale cicliche del sintetizzatore addossate a dei veri e propri assoli di chitarra da timbri estremamente marcati e addirittura arroventati, direi. Successivamente uscirono anche altri album dopo questo di Electronic Guerrilla, che comunque per noi è stato quello più significativo dell'esperienza degli Eldon, ma non finisce qua il discorso legato a Richard Pinat, perché abbiamo qualcos'altro. Sì, continuando il discorso legato a Deleuze e Pinat, se con Schizzo era il riferimento, era chiaro all'Antiedipo, quindi il libro fondamentale, la prima parte di Capitalismo e Schizofrenia, scritto appunto da Deleuze insieme a Félix Guattari, importante anche per il famoso convegno del 1977 qua a Bologna. Arrivò proprio Guattari, che all'epoca riusciva a portare una solidarietà vera, nel senso proprio di tipo concreto. Sì, di tipo concreto, partecipando direttamente, il grande filosofo, anzi portando le idee, le parole del grande filosofo Deleuze, che si muoveva veramente molto poco. Guattari invece era legato al mondo della psichiatria e dell'antipsichiatria, anzi per meglio dire, in effetti poi con l'Antiedipo si parla proprio di schizoanalisi, ovvero l'analisi delle strutture capitalistiche nelle loro forme schizoidi, quindi di dominio particolare appunto a seconda dell'istituzione particolare che viene analizzata, questo per rompere anche con tutto l'idea del freudismo, non Freud, non Marx in Deleuze e Guattari, ma il freudismo e il marxismo come punto di rottura, come controanalisi rispetto appunto a qualcosa che si è voluto gerarchizzare, si è voluto anche come dire, inscatolare quello che è inscatolabile, ovvero la rivoluzione dell'inconscio legata a Freud, appunto alla scoperta di questo mondo, questo altro mondo che ci attraversa, tutta la vita inconscia, e quello di Marx, chiaramente quello della struttura capitalistica, che però appunto sia da Deleuze che da Guattari veniva presa come analisi originaria, non legata sicuramente poi a quello che sarà il marxismo ortodosso, e quindi come scuola, come dottrina, anzi in questo senso qua contro la mortificazione di Freud e di Marx. Fu anche ripreso in un certo qual modo Nietzsche, fondamentale proprio in quel momento per un pensiero, se vogliamo, etero marxista o post marxista, o comunque legato a quelli che erano i movimenti più avanzati, parola che probabilmente in questo momento non dice niente, ma in quel momento diceva granché, proprio perché Deleuze era molto legato alle avanguardie. Chiaramente con Pinat si va a parlare di avanguardie musicali, e poi il salto ci sarà anche negli anni 80 e 90, come sentiremo. Era molto legato alle avanguardie proprio per un pensiero, potremmo dire propositivo, o legato quindi apertamente a un'affermazione, una concezione come creazione di concetti, e un'omologia, una sorta di omologia di procedure tra arte e filosofia. Quindi capite bene quanto il discorso di creare appunto concetti nuovi riguardi di fatto non solo la filosofia, ma soprattutto l'arte, la musica, e quindi non una sorta di separazione tra quello che veniva considerato il pensiero principale in termini appunto di disciplina, quello della filosofia, e poi delle varie arti, ma un insieme che appunto funziona in maniera rizomatica, orizzontale, e in questo senso appunto rompe anche uno dei logos, una delle ragioni del pensiero più fortemente occidentale, cioè quello appunto dell'unità di pensiero, che ci porterebbe lontano come discorso, e lì prende molto Nietzsche, nel senso di superare l'idea del cristianesimo come critica che faceva Nietzsche, appunto come platonismo volgarizzato, e tentare appunto un'operazione che non si fonda sull'unità, ma bensì appunto sulla molteplicità, e quindi il Plateau ai mille piani, no? Sì. Adesso basta, Richard Pinard. Te lo dici da solo? Me lo dico, no, me lo dico da solo. Sono dico cose basta. Importanti, poi il tempo purtroppo è tiranno. È tiranno, non solo, anche quello appunto una forma di dominio. E Richard Pinard da Rizosfera, appunto la sfera dei rizomi, l'errore che già non era digitale ma analogico, e che ci permetteva appunto non di fare il minimalismo ma di fare la ripetizione, proprio come diceva il grande filosofo francese. Thank you. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle, c'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu. Exposure, space, space, space. Forget a dead empire and build a living republic. Time to forget a dead empire and build a living republic. Consolidate revolutionary gains, five steps are necessary. Number one, proclaim a new era and set up a new calendar. Space. Number two, replace alien language. Space. Number three, destroy or neutralize alien gods. Space. Number four, destroy alien machinery of government and control. Space. Number five, take wealth and land from individual aliens. number space, number three space, number three joy, our new space, number four, number two, number eight, number five, destroy alien machinery of Joe soul. Number three, space, number one, our neutralized well and land from individuals. Number two, number four, space, destroy alien number three, government control. Space, number four, number five, number two, space, number five, land from individual alien space. Space, number number one, destroy our neutralized alien god. Number two, space, number four, space, destroy three, alien machinery of government, space, control. Number four, space, number five, space, number five, take wealth and land from individual space. Aliens, space. cause for alarm, folks. Proceed about your daily tasks. But one thing is clearly understood. Your lives, your bodies, your properties belong to us whenever and wherever we choose to take them. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Why waste a good-looking boy? Waste a good-looking boy. Beh, è un omaggio veramente particolare questo, visto che è degli anni 70 di Pinà, che riassumeva, anche perché diciamola tutta, negli anni 70 non era particolarmente famoso Deleuze se non in ambito accademico, poi dal 77 in poi diventerà famoso anche qua in Italia, ma tramite appunto Guattari, che sarà uno dei protagonisti proprio del storico settembre del 1977 qua a Bologna, al Palazzetto dello Sport. Palazzetto dello Sport, sì. Dove appunto ci fu il famoso, per chi sa qualcosa di controcultura e di marxismo eretico, un famoso appunto convegno post marzo contro la repressione. Contro la repressione. E Guattari, insomma, portò le sue idee, chiaramente anche quelle di Deleuze. E la faccenda appunto di Deleuze divenne molto famosa, soprattutto negli anni 80, anche grazie a un lavoro fatto da menti molto attente come quelle da Sabrosa, che riuscirono a esportare il discorso deleuziano con una delle loro MITS compilation fondamentali per quanto riguarda le musiche sperimentali, industrial e quant'altro, anche del mondo delle avanguardie degli anni 80. La prima MITS Sabrosa si muoveva su un discorso internazionale, con ad esempio un personaggio assolutamente geniale come Martin Olson, commediografo anche di un certo successo legato a Disney e a Hollywood, che però ogni tanto impazziva, faceva delle cose molto fuori dai gangheri. In questo caso, tra l'altro, l'omaggio a Deleuze, perché tutta la MITS volume 1 è proprio dedicata a lui, è con William Burroughs. E la faccenda così l'abbiamo voluta complicare con questo omaggio, perché la faccenda barroxiana, prendendo appunto dal cut-up, e se facciamo un passo indietro e torniamo alla trasmissione dell'altra volta e quindi andiamo alla Dada surrealismo, anche per certi versi di Artaud, che nella opera ascoltata appunto la settimana scorsa, dedicata a Carmelo Bene, quindi sulla sperimentazione vocale, utilizzava anche una sorta di collage sonoro vocale. D'altronde il Deleuze della ripetizione si rifà proprio a quell'Artaud radiofonico, come d'altronde Burroughs con il suo cut-up fa in America, per poi influenzare quello che sarà ad esempio l'hip hop degli anni 80. E proprio andando a prendere quello che è una forma di hip hop dabbato, industriale e folle, andiamo a prendere sempre dalla MITS un altro personaggio assolutamente incredibile di quegli anni, anni 80. Mark Stewart, che insieme appunto a Progetto Mafia, The Wrong Name and the Wrong Number, dunque il nome sbagliato e il numero sbagliato, l'errore, mixato da Adrian Sherwood, scritto da Mark Stewart, un grande degli anni 80. Chiudiamo con questo brano la prima parte di Natale con Deleuze. Abbiamo affrontato gli anni 70, gli anni 80, abbiamo seguito un discorso storico, e apriremo la seconda parte dopo il GR di Radio Popolare Network con gli anni 90, appunto dedicati, sempre connessi a Gilles Deleuze. Action Pack War Comic. This is a restricted area.